Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, una giornata triste per Radio 24, come già alcuni di voi sanno, perché è scomparsa la moglie di Alessandro Milan, collaboratrice anche di Radio 24, oltre che ex giornalista di questa radio. Chiaramente anche da parte nostra vanno le condoglianze alla famiglia di Alessandro Milan e alla memoria di sua moglie. Per quello che riguarda invece la giornata economico-finanziaria, venendo alla cronaca che contraddistingue questo programma, ovvio che oggi ci occuperemo del Monte dei Paschi. Alle 5:30, come già ricordavo nei nostri GR, salirà il Presidente del Consiglio incaricato, e quindi Gentiloni, al Quirinale per sciogliere la riserva e, da quanto abbiamo capito, anche la lista dei ministri. Di cosa parleremo oggi? Parleremo del Monte dei Paschi, chiaramente più 4,21% adesso. Ha avuto una giornata anche oggi molto molto movimentata. Perché? Perché è stato sospeso più volte per eccesso di volatilità e per eccesso di rialzo. Non ci sono diciamo novità forti su Monte dei Paschi, se non l'ipotesi continua, mentre il CDA, il Consiglio di Amministrazione, ha detto di essere in grado, continua a ribadire di essere in grado di riaprire la conversione delle obbligazioni in mano al retail, quindi ai clienti, le famose obbligazioni subordinate che sono state comprate da 40.000 risparmiatori circa. Si tratta dell'obbligazione Upper Tier 2 2008-2018, ha un controvalore di 2 miliardi di euro, fu interamente collocata, e già questa fu un'operazione diciamo, molto discutibile, al mercato dei piccoli risparmiatori per finanziare una parte della famosa acquisizione di Antron Veneta, che è l'inizio, se vogliamo, di tutti i mali, almeno di quelli più recenti, del Monte dei Paschi di Siena. Non sono noti i termini del concambio. Il punto è capire se nel caso si optasse per una conversione forzosa, quindi sarebbero obbligati i detentori di obbligazioni ad avere la trasformazione dell'obbligazione in azioni, beh, il Tesoro a quel punto sarebbe pronto a intervenire per neutralizzare le perdite a carico dei risparmiatori. Il problema è, e quello vorrebbe dire l'ingresso poi dello Stato ulteriormente, perché già una quota del 4%, il problema è poi capire quale sarà il tasso di intervento del Ministero del Tesoro, cercheremo di affrontarlo anche dopo, e quando, cosa che alcuni hanno fatto notare, si può dire che in realtà il risparmiatore non fosse al corrente dei rischi sul fronte della sottoscrizione di un'obbligazione subordinata come quella. L'altro elemento è capire anche come non svantaggiare particolarmente gli ultimi sottoscrittori rispetto a chi ce l'ha da più tempo, e quindi qualche cedola l'ha presa. Servono comunque 5 miliardi nel giorno in cui però abbiamo da Londra anche la presentazione del piano industriale di UniCredit, che viene presentato agli analisti, altra banca che andrà ad aumento di capitale. Ripeto, l'entità in questo caso si aggira, stando alle fonti e alle informazioni circolate, intorno ai 13 miliardi di euro. I temi: avremo anche la classifica annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, la classifica molto attesa, verranno anticipate anche in questo caso i nostri GR, qualità della vita, e soprattutto il fatto che sia Aosta la provincia italiana con la miglior qualità della vita, Vibo Valentia la peggiore. L'anno scorso c'era Bolzano al primo posto e all'ultima Reggio Calabria. Visto che parlavo di borsa, vi do anche gli altri aggiornamenti. Al di là del Monte dei Paschi, più 4,31%, Eni più 3,86%, Saipem più 2,90%. Eni oggi ha ufficializzato, ha concordato la cessione alla russa Rosneft di una quota del 30% della concessione di Shorou, che è l'offshore, quindi nel mare egiziano, dove si trova anche il giacimento super giant di gas, quello di Zohr. Le condizioni concordate prevedono un corrispettivo per l'Eni di 1 miliardo e 125 milioni di dollari e il rimborso pro quota da parte di Rosvenet degli investimenti già effettuati dal cane a sei zampe, pari a oggi a circa 450 milioni di dollari. Rosvenet avrà anche un'opzione per l'acquisto di un altro 5% di partecipazione alle medesime condizioni. Dicevo, al di là di Eni più 3,93%, Saipem più 2,90%, Tenaris più 2,70%, Biper Banca più 1,90%, Fiat Chrysler più 1%. L'Eni e Saipem si avvantaggiano però anche del prezzo del petrolio, il quale, dopo l'accordo tra i paesi OPEC e i paesi non OPEC, su Italia la produzione sono 500.000 di barili al giorno in meno, 558.000 barili per la precisione. Adesso viaggia a 53, vicino a 54 dollari al barile, 53,6 dollari al barile il WTI. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Oggi è il petrolio il vero re dei listini, è balzato anche sopra i 54 dollari al barile e i future, vale a dire i titoli ancorati alle quotazioni attese proprio del greggio, si sono già portati avanti a 57 dollari al barile. Si tratta del più forte rialzo dal luglio del 2015. La causa è l'accordo raggiunto sabato a Vienna tra i paesi OPEC e i paesi non OPEC, cioè gli 11 stati produttori di greggio che non aderiscono al cartello guidato dai sauditi, dove siedono Russia e Messico tra gli altri. Il valore strategico di quell'intesa è grande, visto che si tratta di un protocollo che non si vedeva da 15 anni e copre il 60% della produzione globale di petrolio. L'accordo prevede che al taglio già previsto dall'OPEC, vale a dire 1,2 milioni di barili al giorno, si affiancherà anche quello dei paesi non OPEC, che somma i 300.000 barili di Mosca agli altri 258.000 dei 10 paesi coinvolti nel cartello non OPEC. Le borse hanno reagito in negativo su quasi tutte le piazze perché l'aumento del prezzo del petrolio fa avvicinare l'obiettivo di un rialzo dell'inflazione, cui è legata alla scelta di aumentare i tassi di interesse da parte della Fed americana, che a questo punto sarà obbligata a rialzarli dello 0,25%, probabilmente entro la fine dell'anno. Tuttavia, alcuni analisti non considerano la quotazione a 57 dollari come stabile e molti convergono nel considerare il prezzo più realistico poco sopra i 50 dollari per tutta la prima metà dell'anno e immaginano un aumento più vicino ai 60 dollari verso la seconda parte del 2017. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, gli altri titoli di borsa vedono invece Italgas perdere il 2,5%, Unicredit, di cui ci occuperemo, il 3,5%, Buzzi Unicem il 2,30%. Gli indici, complessivamente Milano guadagna lo 0,40%, mentre invariata Parigi perde lo 0,1%, Francoforte perde lo 0,70%, Londra, Dow Jones più 0,24%, Euro a 1,05%. Non ci occuperemo oggi delle nomine molto discusse, anche controverse per alcuni casi, che sta effettuando il neo presidente americano Donald Trump, anche se sarebbe già circolano molte ipotesi se venisse scelto Tillerson come segretario di Stato, quindi come ministro agli esteri degli Stati Uniti. Molti analisti fanno notare che questo aprirebbe una nuova relazione nei rapporti tra Russia e Stati Uniti. Tillerson in questo momento è il numero uno di Exxon Mobil, ma da questo punto di vista è noto che ha un grosso rapporto con la Russia e anche con la Russia di Putin. Mi concentro su un altro elemento. Trump oggi in un tweet ha scritto che il programma degli F-35 e dei suoi costi sono fuori controllo. L'F-35 è il caccia di nuova generazione americano, a partecipazione anche italiana, che ha incontrato più di un problema. Miliardi di dollari possono e saranno risparmiati su acquisti militari di altro genere dopo il 20 gennaio. Così ha scritto appunto su Twitter Trump, e poco dopo il titolo Lockheed Martin, e quindi del gruppo che costruisce l'F-35, è calato del 4%, bruciando 4 miliardi di capitalizzazione di mercato. Andiamo invece sugli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda Le reazioni al tema italiano, segnalo di nuovo un Financial Times che dice l'Italia pone un'enorme minaccia all'euro e all'Unione, e va giù molto duro, è sempre Wolfgang Münchau, quindi non è solo Financial, non è tanto il Financial Times ma uno dei suoi editorialisti, dice attenzione, le cinque condizioni per evitare un'uscita dell'Italia dall'euro comunque ritenuta improbabile. Per quello che riguarda invece UniCredit, anche di questo parleremo, ripeto, ma oggi è stato ufficializzato l'accordo per cedere ad Amundi Pioneer, con l'esclusione delle attività di Pioneer in Polonia. Praticamente verranno pagati 3,545 milioni di euro e in aggiunta UniCredit riceverà da Pioneer, prima della chiusura dell'operazione, un dividendo straordinario di 315 milioni. 3,8 miliardi chiaramente, scusatemi, di euro, e poi in aggiunta un dividendo straordinario di 315 milioni. E ancora notizie che riguardano l'Italia e gruppi italiani. Il Consiglio di amministrazione di Alitalia, come programmato, si è riunito oggi per esaminare la strategia di un secondo piano industriale, vista le difficoltà del gruppo. Il Consiglio però ha chiesto all'advisor finanziario Lazard ulteriori dettagli e tornerà a riunirsi in settimana. Invece è arrivata la conferma di un accordo sottoscritto tra Ferrovie dello Stato e Astaldi. L'accordo prevede la cessione della partecipazione detenuta da Astaldi in M5 SPA, che è la società che sta realizzando la linea 5 della metropolitana di Milano, alle Ferrovie dello Stato. Astaldi cede il 36,7%, valutato in 64 milioni e mezzo di euro, e resta azionista al 2% per assicurare supporto allo sviluppo dell'attività di propria competenza, e appunto viene acquistato dalle Ferrovie dello Stato. C'è una dichiarazione anche del numero 1 Renato Mazzoncini delle Ferrovie dello Stato, che dice l'ingresso delle Ferrovie dello Stato italiane nell'azionariato di Metro 5 segna un ulteriore passo in avanti nel realizzare il piano industriale presentato lo scorso 28 settembre, che ricordo aveva un elemento importante anche nella partecipazione dell'FS in quella che chiamiamo generalmente viabilità e trasporto locale. Allora, il dato del terzo trimestre 2016 sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato vede un numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato inferiore a quelli cessati, per cui sono 406.000 assunzioni a tempo indeterminato, che comunque sono in calo del 18% rispetto al terzo trimestre 2015, cioè rispetto all'anno prima, rispetto a 483.000 cessazioni di rapporti fissi. Lo si legge nel report sulle comunicazioni obbligatorie pubblicato dal sito del Ministero del Lavoro. Il dato, come più volte abbiamo spiegato, risente della riduzione degli incentivi sulle assunzioni a tempo indeterminato. La famosa decontribuzione è scesa da 8.000 a 4.000 euro. Nel complesso, comunque, i rapporti di lavoro attivati, quindi al di là dei tempi indeterminati, nel terzo trimestre sono stati 2.380.000 contro 2.320.000 cessazioni. Alcuni mi chiedono ma perché il Monte dei Paschi sì e altre le quattro banche. Allora lì poi ne parleremo. C'è all'interno del bail-in, dell'accordo sottoscritto anche dall'Italia, che in caso di crisi bancaria paghino in primo luogo azionisti, poi obbligazionisti nei vari gradi, fino ad arrivare ai correntisti per la parte sopra i 100.000 euro. C'è la possibilità nella legge sul bail-in di vedere l'ingresso dello Stato qualora la crisi bancaria possa avere effetti sistemici, cioè possa avere effetti sull'intero sistema bancario. Lo so, è una differenza rispetto alle quattro banche: Etruria, Chieti, Ferrara e Marche. È anche vero, senza girarci attorno, che il peso del Monte dei Paschi sul sistema bancario italiano è di gran lunga superiore a quello che avevano le quattro banche. Quindi sul Monte dei Paschi tu puoi far ricorso alla definizione di crisi che può diventare sistemica. Nelle quattro banche locali era difficile far passare questo concetto. ma vi arriveremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Passiamo subito al primo tema, mi riferisco all'indagine annuale della qualità della vita, quella pubblicata ogni anno dal Sole 24 Ore. Allora, un appuntamento annuale, quello del Sole 24 Ore, che stila la classifica delle... Qualcuno mi scrive, Aosta non è provincia, ho capito. Nel senso che Aosta fa anche provincia, però è una regione autonoma. Però la classifica riguarda le province italiane e va a prendere un insieme di indicatori articolati in sei settori di indagine, e quindi affari, lavoro, innovazione, reddito, risparmi, consumi, ambiente, servizi e welfare, demografia, famiglia, integrazione, giustizia, sicurezza e reati, cultura, tempo libero e partecipazione. Dicevo, prende questi indicatori divisi in sei settori e nella sua 27esima edizione, perché è 27 anni che la facciamo, va a vedere la classifica della qualità della vita sulla base appunto di queste variabili. Ripeto, rispetto all'anno scorso sale Aosta di 7 posizioni, resta invariata Milano e anche Trento al secondo e al terzo posto. Belluno sale di 13 posizioni, Sondrio resta invariata, Firenze ne perde 2, Bolzano ne perde 6 perché era prima l'anno scorso, Bologna ne guadagna 4, Udine ne guadagna 9 e al decimo posto Trieste, che sale di ben 24 posizioni. Il dato più forte quanto a salita, diciamo, della classifica, però, è della provincia di Pordenone. 43 posizioni in più, si colloca al 17esimo posto su 110 in tutto province di questo paese. Poi, per quello che riguarda invece la parte in basso, la classifica, Vibo Valentia perde una posizione, l'anno scorso era penultima ed è all'ultimo posto, Reggio Calabria ne guadagna una e va al penultimo posto, se la giocano, diciamo, in Calabria l'ultima e la penultima. Caserta, andando a ritroso agli ultimi 10, resta al terzultimo posto invariata. Napoli perde 6 posizioni, quartultima, e poi quintultima Crotone, che perde ben 17 posizioni. Taranto ne guadagna 2 e al quarto posto, è, diciamo, sest'ultima, se vogliamo metterla così, e poi Barletta, Salerno, Foggia e Cosenza. Sale anche Roma di 3 posti al 13esimo posto, spinta dal valore del patrimonio immobiliare dei flussi turistici legati al Giubileo. Anche in questo caso, così come citavamo Pordenone come la provincia che ha fatto il balzo più forte, citiamo sostanzialmente Olbia Tempio, che ha fatto il calo più forte, 53 posizioni, perde dal sesto posto, scende al 59esimo posto. Allora, Rossella Cadeo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Rossella, ricordiamo sempre, perché poi ogni volta arrivano un po' di polemiche, ma in base a che cosa? Allora, i settori, questi sei settori hanno tantissime poi variabili al loro interno. Sì, quest'anno tra l'altro vorrei sottolineare questo importante intervento, abbiamo aumentato più che modificato i parametri, in ciascuna area non sono più solo 6 ma sono saliti a 7 e abbiamo cercato di rendere ciascuna area più ampia, più inclusiva, mentre l'anno scorso avevamo ambiente e servizi, adesso abbiamo ambiente, servizi, welfare. Quest'anno negli affari e nel lavoro abbiamo introdotto anche il concetto di innovazione, nella cultura, tempo libero, anche la partecipazione con il numero delle onlus, non avendo il volontariato perché ancora non è stata aggiornata la ricerca dell'Istat, però insomma abbiamo ampliato tutte queste, gli indicatori sono 42 anziché 36, e quindi anche questo confronto, questo sali scendi che in alcuni casi può apparire molto forte, deriva in parte anche da una metodologia leggermente diversa. Allora, noi abbiamo ritenuto di migliorare in questo modo per dare una fotografia più accurata ampia di quella che è la realtà sul territorio. Allora, c'è il valore del patrimonio immobiliare residenziale, per esempio ad Aosta supera i 100.000 euro pro capite, che è il triplo rispetto all'ultima, che è Vivo Valencia. Sì, esatto. Poi c'è la disoccupazione giovanile, che ad Aosta è esatto, sì, al 82%, è la metà di Vivo Valencia. Prendo la prima e l'ultima così ci capiamo. Sì. E poi il numero di stranieri residenti che ha acquisito la cittadinanza, il 9% ad Aosta, meno dell'1% a Vivo Valencia. 7 rapine ogni 100.000 abitanti ad Aosta contro le 44 rapine ogni 100.000 abitanti a Vibo. E poi contenzioso civile, quanto durano le cause, sono quelle superiori a 3 anni sono solo il 3% ad Aosta, il 51% a Vivo Valencia. Attenzione, la legge è uguale per tutti, qui vuol dire che funzionano male anche i tribunali, in questo caso civile. Sale cinematografiche ogni 100.000 abitanti, 8 ad Aosta, 2 a Vivo Valencia. Comunque, questo era già più intuitiva. Dopo meteo e la pubblicità, ti chiederò però, Rossella, di capire perché alcune città hanno degli scossoni. Tu già ricordavi che si sono ampliati gli indicatori, ma insomma, che cosa ha determinato gli scossoni più forti, al di là del fatto che Vibo fosse penultima ed è ultima quest'anno, Aosta fosse ottava ed è prima quest'anno, ma ci sono le scossoni più interessanti che già citavo prima. Dopo il meteo però, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, un inciso. E ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno mandando i loro messaggi e testimonianze di cordoglio ad Alessandro Milan. Cercherò di girargliela appena avrò modo. Grazie a tutti voi. Meteo. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora, 17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non risponderò oggi a nessuna email di polemica, una giornata di lutto per Radio 24, non ho proprio voglia, per cui andiamo sulle notizie e andiamo avanti così, va. Allora, Rossella Cadeo, dicevamo degli elementi che hanno creato questa oscillazione molto forte nella classifica del Sole 24 Ore. Prendiamo ad esempio Pordenone, da un lato, che è salita per quello che riguarda la classifica, e dall'altro invece citavo il caso di Olbia, Tempio, Pausania. Prego. Sì, una ragione l'ho indicata nella prima parte di questa nostra conversazione, ed è appunto l'ampliamento dei parametri, l'allargamento ad altre tematiche che negli anni scorsi non apparivano. E in ogni caso vorrei anche far notare che la classifica finale rispecchia sempre il solito divario nord-sud. Questi grossi scossoni riguardano parte classificazioni, posizionamenti intermedi o comunque a livello di zone basse o mediane della classifica. Per capire poi bene che cosa può essere successo, bisognerebbe andare a prendere parametro per parametro, o magari anche solo classifica settore per settore, ciascuno dei 6 settori, per vedere dove la provincia che appunto si è mossa di più in avanti o indietro e ha fatto meglio o peggio. Per esempio, non so, vedo per Pordenone, noi abbiamo tra l'altro la possibilità di vedere online tutti i dati di tutte le province. Pordenone e un'altra provincia che è avanzata molto è Verbano, Cuse, Ossola, sono nella prima ventina della classifica. Fanno molto bene nella parte che riguarda la giustizia, la sicurezza e i reati, dove appunto abbiamo portato queste interessanti innovazioni, che sono 2 parametri relativi al contenzioso civile. Non abbiamo più considerato solo la parte critica del della sicurezza, insomma, del vivere insieme di una collettività sotto il profilo dei reati, ma anche la parte relativa alle possibilità di liti, di contenziosi civili. Quindi abbiamo questi due parametri che vanno a sostituirne. Sì, quello che preciso agli ascoltatori è che una qualità della vita appunto a 360 gradi, non è solo il reddito o i dati sulla criminalità. Chi mi chiede cosa è successo, lo ripeto per l'ultima volta, è scomparsa la moglie di Alessandro Milan, collaboratrice Francesca Del Rosso, collaboratrice anche, oltre che ex giornalista di questa radio e del programma di Enrico Ruggeri, come autrice Il Falco e Gabbiano, e quindi il lutto è rivolto a questo, e il nostro cordoglio, le condoglianze vanno chiaramente ad Alessandro Milan. Detto ciò, il nostro Simone Spezia ha raggiunto oggi Alessandro Ciriani, che è il sindaco di Pordenone, la città che ha fatto il balzo più alto, e poi anche il sindaco di Olbia, ascoltiamo, che invece si chiama Settimo Nizzi, che invece è la città che ha fatto il tonfo più forte, ha perso 53 posti. Sentiamo prima Ciriani e poi Nizzi. Il tema della sicurezza qui non è quello prioritario, anche se viene gestito con grande oculatezza. Devo dire che la fortuna di questo territorio non è ascrivibile esclusivamente alle politiche e agli amministratori, ma anche alla qualità della nostra gente. Insomma, qui c'è grande decoro, c'è la gara che tiene bene i parchi, che tiene pulite le strade, che tiene pulite le proprie case. Quindi è una somma di elementi positivi che è legata poi alla qualità sanitaria, a una vitalità culturale straordinaria, nonostante siamo un territorio molto piccolo. A una gestione dei siti sociali all'avanguardia, abbiamo sperimentazioni che sono diventate oggetto anche di analisi internazionale, quindi questi elementi qualificano ovviamente un territorio e fanno fare questi salti in avanti. Disarmante a vederlo così con i dati, con gli indicatori che sono stati utilizzati. C'è crisi vera, però aver perso tutte queste posizioni, bisognerà quanto prima entrare nel merito. Che ci sia un aumento della disoccupazione è innegabile, che ci sia una riduzione del lavoro in generale, anche del commercio, nonostante tutto c'è un aumento delle persone, dei turisti che arrivano e partono, per cui c'è questa grossa discrepanza sulla quale naturalmente bisogna iniziare a discutere. Allora, grazie a Rossella Cadeo. Noi invece adesso ci spostiamo sulla borsa per poi arrivare anche altri temi. Prima di arrivare, andiamo sulla borsa subito, poi passerò anche ad altri temi. Allora, la borsa oggi, anche in questo caso, il tema principale si è chiamato per molte ore Monte dei Paschi, più 3,70%. In realtà il miglior titolo alla fine è Eni, più 3,72%. Il fronte opposto vede Italgas perdere 2,60%, Buzzi Unicem il 2,30%. Guido Maurino, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Guido, Unicredit ha annunciato, e ne parleremo se ce la facciamo dopo, se no domani, che c'è il piano industriale con Marco Ferrando, l'inviato del Sole 24 Ore a Londra, dove Unicredit sta presentando oggi al Consiglio di Amministrazione e domani il piano industriale. Dicevo, Unicredit ha perfezionato la vendita di Pioneer ad Amundi, accordo che vale 3 miliardi e 800 milioni di euro, compresa la parte di dividendo straordinario da 315 milioni. Però a far notizia oggi è soprattutto Eni. Da un lato, lo ricordavo in apertura, cede a Rosneft, ai russi, una quota del 30% della concessione di Shawrukh, quella che si trova nel super giacimento di gas a largo dell'Egitto, Azor. Però immagino che benefici anche del prezzo del petrolio in risalita. Sì, oggi abbiamo visto un po' tutti i titoli legati al petrolio che guadagnavano dopo questo accordo che è stato raggiunto fra i paesi non OPEC per tagliare la produzione. È un po' un insieme di notizie che sono arrivate nelle ultime settimane dai paesi produttori di petrolio. Prima hanno tagliato quelli dell'OPEC, poi anche quelli non OPEC, non allineati al cartello, si sono allineati. Tutte cose che fanno sì che, sempre che questi accordi poi vengano rispettati, che è un po' la grande incognita che oggi segnalavano anche gli analisti, gli operatori, se questi accordi vengono rispettati, certamente il prezzo del petrolio è destinato a salire, quindi anche i margini delle società che si occupano di questo settore ne beneficeranno. Per quello che riguarda poi appunto la cessione che è avvenuta oggi, che tu ricordavi, bisogna dire che da un lato questa cessione consente a Eni di monetizzare, dall'altra parte però abbassa anche, come si suol dire, il rischio, perché consente a Eni di concentrarsi anche su altre attività, eccetera, e di non dover concentrare molti rischi su uno stabilimento importante, su un giacimento importante come quello egiziano. Come quello egiziano. Andiamo avanti con gli altri titoli. Monte dei Paschi ne parleremo dopo. Saipem più 2,90, Tenaris più 2,70, Biper Banca più 1,80 per cento, UBI più 1,20, Enel più 1,1, Fiat più 1% come Terna. Tra chi ha perso, oltre a Unicredit il 3% e Italgas appunto il 2,60, Buzzi Unicem il 2,30, Mediolanum 1,40 come ricordati e Ferragamo. Brembo perde l'1,20% come Mediaset. Mediaset resta sotto i riflettori dopo l'OPA, no, di 21 Century Fox su Sky e l'interesse di Orange che è venuto fuori. Sì. Su Vivendi Canal Plus, no? Sì, diciamo che anche proprio quest'ultima notizia, questo interesse per la pay TV di Vivendi Canal Plus, riaccende un po' l'attenzione anche per Mediaset Premium, sulla pay TV appunto di Mediaset. Mm-hmm. Ci si aspetta che questa ritrovata attenzione per il settore delle TV a pagamento possa in qualche modo andare a incidere anche sui multipli con cui viene valutata Mediaset Premium e quindi fa sì che ci sia un po' di ritorno d'attenzione. L'abbiamo visto soprattutto nei giorni scorsi, il titolo Mediaset era arrivato a guadagnare il 23% da fine novembre a venerdì. Oggi ha un po' ritracciato appunto perché la performance era stata importante, ha perso l'1,24%, ma tutti rimangono ancora con gli occhi ben attenti, ben posizionati su Mediaset per vedere quali possono essere le evoluzioni nelle prossime settimane. Allora, intanto sto controllando anche i vari schermi perché appunto il Presidente del Consiglio incaricato è salito al Quirinale alle 17.30 per sciogliere la riserva e ci darà a questo punto la lista dei ministri. Trasmetteremo in diretta in questo programma, se dovesse uscire in tempo utile, la lista che farà come sempre il Presidente del Consiglio dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Mattarella. Andiamo avanti invece con altri titoli oltre a Mediaset. Novità oggi per il titolo Trevi. Sì, oggi per quello che riguarda... Che è il migliore della seduta, tra l'altro, più 13%. Sì, ha annunciato commesse per 160 milioni di dollari da parte di una controllata attiva negli impianti di perforazione petrolifera. Si tratta di commesse che riguardano sia il Sud America, sia in modo minore i paesi dell'Europa orientale e i paesi arabi. E sono particolarmente importanti perché una parte dei soldi che arriveranno da queste commesse da 160 milioni di dollari sarà già contata sul bilancio dell'ultimo trimestre 2016, per cui ne trarrà beneficio subito e anche in borsa, diciamo, ne ha tratto beneficio subito. Allora, visto che parlavamo dei migliori e peggiori, KR Energy è il secondo miglior titolo più 8,70, Sol più 5,60 e poi Carraro più 5,30%, fronte opposto CT Biofarma più 5,70, Molmed più 5,20, Monreef più 4,80%, Mutui Online meno 4,80%, Mutui Online meno 4%. Grazie anche a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Di nuovo ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi obiettivamente molte volte toccanti ad Alessandro Milan. Cercherò per quello che mi sarà possibile di girarglieli. Sicuramente vi farà piacere sentire il vostro affetto e il vostro calore. Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Focus Economia. Allora, dicevamo di Unicredit che è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione nonostante la cessione di Pioneer, e allora ci spostiamo a Londra dove Marco Ferrando, come ricordo, guardo anche la televisione per capire se si apre la porta del Quirinale dove è a colloquio il Presidente del Consiglio Gentiloni con il Capo dello Stato Mattarella per presentare la lista dei ministri, ma è stato un falso allarme. Dicevo, a Londra oggi Unicredit presenta al Consiglio di Amministrazione, domani al piano industriale. Allora Marco Ferrando, buonasera. Sì, buonasera a voi. Marco, spiegazioni cioè, Unicredit cede Pioneer, accordo da 3 miliardi 800 milioni con una cedola extra da 315 milioni. Due spiegazioni: o questo era già scontato nei giorni scorsi, oppure le preoccupazioni sull'aumento di capitale sono più forti rispetto alla cessione di Pioneer. Ma sì, diciamo che la cessione di Pioneer, tra i tanti motivi per cui è stata portata a casa, e alleggerire l'aumento di capitale, quindi compensare in parte la manovra sul mercato, che in ogni caso sarà double digit, sarà oltre 10 miliardi. Domani l'amministratore delegato Mustier svelerà questa cifra, che il mercato stima intorno ai 13 miliardi. Si tratta dell'aumento di capitale più grande che sia mai stato effettuato da una banca italiana. Il clima intorno al settore è quello che vediamo. Certo, Unicredit non è il Monte dei Paschi, però il mercato è normale che guardi con un po' di preoccupazione, o comunque insomma comincia a scontare questo maxi aumento. Maxi aumento che però, lo ricordiamo, visto che dopo parleremo del Monte dei Paschi di Siena, non ha nessuna delle caratteristiche o delle difficoltà che sta incontrando quello del Monte dei Paschi di Siena. All'inizio si parlò di 10 miliardi, poi spostati ad almeno 13. Sì, è così. Domani probabilmente dall'amministratore delegato arriverà anche qualche cenno sui tempi e sulle modalità del collocamento. Già nei giorni scorsi Mustier aveva detto che non ci sarà in alcun modo il coinvolgimento dello Stato, quindi sarà un aumento che Unicredit vorrà e con ogni probabilità potrà fare con le proprie gambe. Ripetiamo, l'Unicredit non è in Monte, quindi sicuramente la percezione sul mercato è diversa, anche se bisogna dire che qualche affinità c'è, ad esempio sul fronte dei crediti deteriorati, nel senso che dalle anticipazioni che abbiamo dato in queste settimane non smentite ci sarebbe una pulizia generale, quindi vuol dire maxi accantonamenti sul fronte dei crediti deteriorati, analogamente al Monte dei Paschi. Siena l'ha fatto, sta cercando di farlo perché gliel'ha chiesto la vigilanza, Unicredit per scelta, però da un lato si dimostra che questo inevitabilmente per tutti è la strada, e dall'altro si spiega anche questo fabbisogno così alto di capitale. 13 miliardi uniti ai 5 portati a casa con le cessioni, sì. C'è Pioneer, c'è stata anche Pecao e alcune quote di Fineco, fanno manovra da quasi 20 miliardi, metà dei quali probabilmente serviranno proprio a rafforzare le coperture e quindi, come dire, a fare una cesura col passato rispetto agli NPL, che come sappiamo sono uno dei motivi per cui tendenzialmente, cioè, lo spiego tutti, Unicredit dovendo avendo ancora molti crediti deteriorati, cioè crediti che non potranno più essere riscossi in molti casi, deve aumentare le coperture, gli accantonamenti, diciamo così, a bilancio, e per questo bisogna di più soldi, da lì l'aumento di capitale. Grazie intanto Marco Ferrando, vi lascio al nostro GR24, appunto sempre in attesa che esca dall'ufficio del Quirinale, dall'incontro col Capo dello Stato Mattarella, il Presidente del Consiglio Gentiloni, e ci faccia sapere la lista dei ministri, in particolar modo, come sapete, soprattutto per quello che riguarda Ministero degli Esteri e anche il Ministero degli Interni, lì ci sono i dubbi più forti, nessun dubbio devo dire sul Ministero dell'Economia, che dovrebbe andare, salvo sorprese, a Padoan, e invece qualche dubbio in più sulla presenza di altri ministri del governo Renzi, a partire dall'ex ministro Boschi. Ci sentiamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management, Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso occupiamoci del Monte dei Paschi di Siena, in attesa che si apra la porta, come ricordava la nostra Annalita D'Ambrosio, della stanza di Mattarella Quirinale, dove è ancora in corso l'incontro con il Presidente del Consiglio Gentiloni per la lista, dove Gentiloni sta presentando al Capo dello Stato la lista dei ministri. Monte dei Paschi di Siena, dicevamo, Consiglio di Amministrazione che ha tentato un'ultima carta per evitare, diciamo così, il sabotaggio pubblico, e qui si apre il capitolo della conversione delle obbligazioni subordinate in mano al retail, cioè ai piccoli risparmiatori, perché la conversione in mano agli istituzionali, agli investitori di professione, già è stata fatta e valeva 1 miliardo di euro. C'è questa obbligazione che si chiama Upper Tier 2 2008-2018, che è in mano a circa 40.000 risparmiatori. Questo è il problema. Vale, ha un controvalore di circa 2 miliardi di lire, fu emessa per comprarsi per trovare dei soldi per comprarsi Anton Veneta. Allora, se si opterà per una conversione forzosa, cioè che tu non puoi scegliere, devi convertire basta la tua obbligazione in azioni, lì potrebbe entrare in gioco il Ministero del Tesoro e quindi lo Stato italiano. Cerchiamo di capire perché, e poi anche perché, come chiedono molti ascoltatori, in questo caso sì, mentre in altri no, con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Paterotti. Alessandro, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Allora, perché potrebbe entrare lo Stato e sulla base di quali criteri? Anche perché abbiamo sentito dire, è difficile capire quando questa obbligazione 2008 è stata comprata inconsapevoli del rischio che comportava, e invece quando tu l'hai fatto perché, pur sapendo che era rischiosa, ti interessava il rendimento. Alessandro. Allora, cominciamo a dire questo. Abbiamo altri 2, massimo 3 giorni per arrivare a un piano definito che si muove in 2 direzioni. Uno è quello di evitare la conversione dei bond del retail in azioni. Attenzione, perché questo è il punto chiave, perché quello che sta facendo adesso il management, in particolare l'amministratore delegato Marco Morelli, coadiuvato anche dal Tesoro e dagli advisor soprattutto, è quello di riportare nel carro quei 4-5 grandi investitori che si erano tirati indietro prima del referendum. Attenzione, adesso la carta che sta giocando Siena è questa sostanzialmente: se prima avevate delle obiezioni perché c'era la possibilità di un vuoto di potere in Italia, incertezza su chi avrebbe governato, sulle elezioni, adesso, per quel che si vede soprattutto dal fronte romano, tutte queste variabili cominciano a cadere una dopo l'altra. Per cui il tentativo qual è? Quello di dire: non ci sono più quegli ostacoli che vi impedivano di entrare in un aumento di capitale. Attenzione, perché questo significherebbe evitare la conversione dei bond subordinati in azioni del Monte dei Paschi. Perché di fatto il delta, cioè la differenza che verrebbe di mancanza che c'è per coprire quello che è requisito, la metterebbero questi investitori. Anche col Qatar si sta trattando, lo posso dire, in queste ore, definitivamente, proprio per cercare di convincere gli investitori che questo governo è un governo che può dare garanzie di stabilità per il momento, almeno nel breve medio periodo, al Monte dei Paschi di Siena e a chiunque vuole entrare. Se questo non dovesse accadere, il discorso è diverso. Se non dovesse accadere, entriamo su un territorio sconosciuto, e qui rispondiamo anche a molti ascoltatori che si chiedono perché con Monte dei Paschi sì e con le altre no. Le 4 banche soprattutto. Allora, prima di tutto sembra paradossale, ma ho scoperto soltanto ora che fino al 2 dicembre di questo mese non si poteva fare l'intervento di Stato nelle banche, perché mancava il regolamento d'attuazione della direttiva BRRD su quel che riguarda il famoso articolo 13, su quel che riguarda la possibile intervento delle autorità pubbliche a salvataggio di una banca. Il documento è interessantissimo, è a disposizione dell'archivio elettronico della BCE in questo momento, e si fissano dei passaggi. Io riassumo soltanto 2 punti che possono essere più rilevanti per gli ascoltatori. Il primo è questo: sta alla Banca Centrale Italiana, quindi alla Banca d'Italia, d'intesa col governo, dare il via all'aiuto straordinario, fatto salvo ed è strettamente deciso dal governo insieme alla Banca d'Italia il ricorso possibile all'annullamento di strumenti finanziari, quindi l'azzeramento delle obbligazioni. Non è detto quindi che un intervento dello Stato debba necessariamente comportare l'azzeramento degli asset che sono stati dati ai risparmiatori. Questa è nella facoltà discrezionale e dell'opportunità. Certamente la strada è molto complessa per l'ingresso dello Stato, comunque, perché non ha precedenti in questo senso secondo le nuove direttive. Allora, che cosa per riassumere? I scenari sono due. Uno è quello che si riesca di qua a mercoledì a riportare dentro gli investitori dal Qatar in giù, diciamo. E la seconda, nel caso in cui non ci si riuscisse, ma questo bisogna dire che veramente è stato fatto tutto il possibile per arrivare alla soluzione privata che salvasse il salvabile. Se arriviamo a quella pubblica, vi ho detto, sta in mano al governo e alla Banca d'Italia decidere come comportarsi per l'ERCAT, ovvero il taglio dell'investimento dei risparmiatori. Ecco, veniamo all'ipotesi B. Allora, è chiaro che l'ipotesi A è quella su cui punta Di Più Morelli e si era bloccata per il referendum. Adesso, come tu ricordavi, però anche questi stranieri, fondi stranieri non possono più sostenere che c'è incertezza politica. A minuti attendiamo la lista del governo. Il governo obiettivamente è stato formato in un tempo breve, non penso che più breve potesse essere. Però immaginiamo che Qatar e tutti quelli, diciamo, da te citati decidono per qualche motivo di non partecipare, certo. Non ritengono più le condizioni sicure per la partecipazione. A quel punto che cosa potrebbe e di che entità potrebbe essere l'intervento dello Stato? Perché si è detto, certo, fino adesso ci sono due oscillazioni, due variabili. Mettiamo che io fossi un obbligazionista del Monte dei Paschi che ha comprato questa obbligazione. Lo Stato potrebbe entrare per neutralizzare la differenza, cioè la perdita che avrei in carico io come risparmiatore rispetto alla conversione con l'attuale valore delle azioni del Monte dei Paschi. Questo sarebbe possibile per la famosa articolo 13, perché c'è un rischio sistemico. E come farebbe lo Stato però a distinguere, perché questo prevede anche un'ipotesi. Allora, intanto vedo un altro aspetto, che la legge, appunto il regolamento d'attuazione diffuso dalla BCE, lascia un ampio margine discrezionale ai governi su come vogliono entrare. Può essere forma di titoli che poi vengono convertiti, può essere forma di aumento di capitale, può essere prestito ponte, può essere tante cose. Quindi veramente siamo in un terreno che non ha precedenti, quindi bisognerà vedere se accade questo, quale strada viene presa. Per quanto riguarda l'importo e quindi il peso dello Stato nella banca, ci sono due, prendiamo due scenari, uno scenario A e uno scenario B. Manca, diciamo così, che entrano in quattro e resta fuori il Qatar. A quel punto ci sarebbe uno sbilancio di 1,2 miliardi, 1,3 miliardi rispetto a quello che era stato preventivato. Quindi l'intervento dello Stato potrebbe concretizzarsi in questo scenario con un, ad esempio si parla di una cedola straordinaria della Cassa Depositi e Prestiti staccata a favore del Tesoro, che a sua volta poi interviene con questo 1,2 miliardi ponte finché il Qatar poi non entra, perché il Qatar ha detto: io voglio la certezza di stabilità per i miei soldi, non è che non voglio entrare, ma voglio entrare a certe condizioni. Quindi esborso minimo 1,5 miliardi ponte, nessun altro effetto, perché poi lo Stato uscirebbe all'ingresso del Qatar. Seconda ipotesi, quella più complessa, in cui i quattro non entrano. Allora lì bisogna fare un saldo fra quello che contano di recuperare attraverso la conversione delle obbligazioni in azione, eventualmente addizionale, ma comunque ne servirebbe lo stesso 3,5 miliardi. A quel punto servirebbero 3,5 miliardi / 4 anche per poter fare l'operazione, minimizzando l'impatto sui subordinati, ma senza investitori esterni noi. C'è una terza ipotesi che non è alternativa, ossia che lo Stato e il governo crei un fondo da 15 miliardi di euro da utilizzare anche in altre situazioni di crisi, ossia una il famoso Atlante 2, non la vendetta, ma Atlante 2 basta. Perché Atlante 1 tutti i soldi che aveva li ha spesi per salvare Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Sappiamo che il Monte dei Paschi per molti è veramente la matrice, l'elemento, diciamo, che di debolezza da cui poi si origina tutto, però è inutile girarci attorno. Sappiamo anche che tante altre banche, prima parlavamo di Unicredit che farà un aumento di capitale con i mezzi andando sul mercato, nessun problema, ma tante altre banche hanno il problema delle sofferenze. Quanto ti risulta probabile l'ipotesi di un fondo da 15 miliardi che, chiaro, a questo punto nella peggiore delle ipotesi 4 dovrebbe metterli per il Monte, ma non sarebbe solo per il Monte? Sì, ma qui parliamo di una questione diversa, che non sarebbe più lo Stato, lì sarebbero i privati. Cioè l'ipotesi del fondo non è un'ipotesi di Stato, perché no, l'ipotesi è quella del lavoro sul fondo Atlante, modello Atlante. Atlante 2, diciamo. Il modello Atlante sono i privati che hanno, altrimenti verrebbe considerato un aiuto di Stato, bisogna fare attenzione su questa cosa. E allora arriviamo ai privati. Quanti privati? Se qui non abbiamo trovato quattro privati che mettono 3 miliardi su una banca, dobbiamo trovarne un gruppo che ne metta 17 su un numero X di banche? La vedo molto complessa. Quindi tu, da quello che capisco, ritieni che il sistema vuole che ci sia certezza. Da quello che io ho percepito dal sistema bancario, continuare, e anche quello finanziario in generale, risorse di queste entità non se le possono permettere. Quindi privato parlo. A quel punto o rientrano Qatar e tutti gli altri, oppure si va verso, come tu ricordavi... Una volta si diceva un investitore alla volta, cioè bisogna fare un'operazione alla volta, pensare di fare tutta un'erba un fascio, cominciare a confondere le idee in un fondo che non sappiamo quante banche e perché, se sono le banche venete basta, se ce ne sono altre. Aumentiamo il livello di incertezza su questo sistema. Ecco, ricordo a chi me lo chiede che comunque è vero che il Monte dei Paschi tra il 2014 e il 2015 sotto la direzione di Viola ha già ricapitalizzato per 8 miliardi la banca. Ma ne ha fatti 4 di aumenti di capitale. Il problema è un altro che dovete ricordarvi tutti, che ogni tanto sono emersi nel corso degli anni dei derivati in bilancio che facevano rivedere il bilancio degli esercizi precedenti. Da Santorini, se io ogni volta vado a rivedere e trovo un buco, è ovvio che dopo dovrò fare nuovi aumenti di capitale. Guardate che il Monte dei Paschi di fatto è già stato spolpato in quello che si poteva fare per raccogliere risorse. Per vendere asset, vendere attività ed evitare, raccogliere quindi liquidità per il rafforzamento patrimoniale. Le alleanze sono state fatte. Io sinceramente altre strade io non so. Quindi o l'ipotesi A o l'ipotesi B, staremo a vedere, perché a questo punto il problema è di nei prossimi giorni, perché i tempi che il mercato si danno quali sono, Alessandro? Beh, guardate, da quelli che io ho capito la banca, il management della banca ritiene di avere tempo fino a mercoledì, massimo giovedì, per presentare un chiudere la possibilità, cioè chiudere e arrivare alla possibilità di un intervento privato che scongiuri altri tipi di penalizzazione per i piccoli risparmiatori che già hanno pagato fin troppo. Quindi entro giovedì, non più tardi di questa settimana, la risposta, sì. O la versione A o la versione B. Grazie intanto Alessandro Platerotti, la porta del presidente Mattarella resta ancora chiusa, noi intanto andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, in attesa di vedere se durante la diretta avremo anche la lista dei ministri del nuovo governo Gentiloni, vorrei occuparmi di un tema, di un settore industriale di cui ci occupiamo pochissimo, ma è un settore industriale, parlo delle sigarette, quindi evitiamo le polemiche, del tabacco. In Italia ci sono purtroppo, lo dico, 11 milioni e mezzo di fumatori, ma stanno emergendo, questo dovrebbe anche risultare positivo per gli ascoltatori, stanno emergendo delle tendenze interessanti proprio sul fronte del fumo elettronico come scelta anche dei grandi, grandissimi produttori di tabacco e quindi di sigarette. E allora sì, parliamo di sigarette, chiaramente non il tabacco, non per pubblicizzare il tema, anche se è assolutamente, l'abbiamo già parlato un anno fa con il numero uno di Philip Morris Italia e Sud Europa, ricordando che la posizione degli stati è anche un po' ipocrita: da un lato tu lo ritieni una cosa pericolosissima, dall'altro però ci guadagni tantissimo dalla tassazione, e stiamo quindi parlando di una cosa assolutamente legale ma che non stiamo promuovendo, ci interessa come settore economico, anche perché qualche novità sta arrivando. Tra l'altro l'Italia è il primo produttore ed esportatore europeo di tabacco grezzo ed è l'ottavo esportatore mondiale per volumi. La produzione italiana, piaccia o non piaccia, ma è estesa su una superficie di 28.000 ettari e vuol dire quasi 89.000 tonnellate, più di 89.000 tonnellate, è praticamente un quarto di tutta la produzione di tabacco dell'Unione Europea. E dà lavoro l'intera filiera, produzione, distribuzione e vendita, a oltre 204.000 persone. Vedo già i messaggi, ripeto, o rendiamo illegale il tabacco oppure lo trattiamo come un settore produttivo e le persone che vi lavorano hanno la stessa dignità di persone che lavorano in altri settori produttivi, va bene? Questo vale per il tabacco o per certe derive vegane, vegetariane sui prodotti alimentari, sulla carne. Io non ho mai capito, lo dico per inciso, certe polemiche non tengono mai conto di cosa capiterebbe a tutti gli addetti del settore carne, per esempio, ormai da alcuni ritenuti tossici tanto quanto tabacco, mi dovrebbero spiegare cosa ne facciamo di quei 300.000 e passa addetti, così come massimo rispetto per i 200.000 e passa addetti del settore tabacco in questo paese. Perché ne parliamo però? Perché le grandi industrie del tabacco mondiale, quindi da un lato Philip Morris, da un lato British American Tobacco, si stanno muovendo in una direzione abbastanza chiara. Abbiamo raccontato in questi anni dell'investimento molto forte a Bologna di Philip Morris per la produzione della sigaretta come stabilimento e fabbrica pilota, che ha portato anche a 300 assunzioni la sigaretta elettronica IQOS, e BAT, British American Tobacco, ha scelto l'Italia per lanciare in anteprima un'altra la sua sigaretta elettronica che si chiama Vype Pebble. Siamo in collegamento con il ministro legato e presidente di BAT Italia, Andrea Consonato. Buonasera. Buonasera, dottor Barisoni, buonasera. Allora, voi siete, ripeto, sono i due grandi player, sono quelli che citavo, siete presenti in 200 mercati e leader in 60 paesi con più di 20 marchi e avete 50.000 dipendenti a livello mondiale. Vorrei partire dall'andamento del mercato. Voi date allo Stato italiano come tasse, diciamo, sui vostri prodotti circa 3 miliardi di entrate dell'erario e avete investito in Italia quest'anno quasi 200 milioni di euro. Su che cosa? Questi investimenti di 200 milioni di euro fanno parte di un piano quinquennale per cui investiremo circa 1 miliardo di euro. Le tre grandi categorie su cui stiamo investendo sono macchinari per la produzione di tabacco, di cui l'Italia è leader mondiale, sono acquisto di tabacco, come lei citava prima, tabacco italiano, perché è il primo esportatore di tabacco in Europa per circa una ventina di milioni ogni anno, ed il resto è fatto in attività di commercializzazione dei nostri prodotti, per un totale di circa 200 milioni quest'anno, 200 l'anno scorso, siamo al secondo anno del nostro piano e quindi siamo in linea per portare a casa il miliardo di cui parlavamo nell'arco di 5 anni. Il miliardo di investimenti in 5 anni. Sì, sì. Ora, una dichiarazione che è arrivata dal vostro concorrente principale, quindi Philip Morris International, sì, presentando in Gran Bretagna la sigaretta elettronica IQOS, quella che viene prodotta a Bologna, se ben ricordo, ha detto, insomma, penso che si arriverà al giorno in cui vi saranno abbastanza prodotti alternativi da iniziare a immaginare insieme ai governi una graduale eliminazione delle sigarette. Ora ricordo che qua il mercato si sta diversificando tra sigarette elettroniche in senso stretto, dove c'è un liquido, o invece la versione IQOS, dove si scada un vero tabacco, però evitando che si arrivi alla combustione, eccetera, utilizzando solo il vapore, per cui non è una sigaretta elettronica, si infila una sigaretta vera e propria in un dispositivo che non lo brucia, ma ne estrae solo il vapore. E quindi con danni conterrebbe un decimo della nicotina della sigaretta tradizionale, oltre che appunto a non bruciare la carta. E vorrei capire come funziona la vostra sigaretta elettronica e soprattutto se anche voi ritenete che di questo passo, non a breve, ma insomma si vada quasi verso la scomparsa del mercato tradizionale delle sigarette. Come diceva lei, vi sono tre grandi categorie di prodotto: la sigaretta tradizionale come prodotto di combustione, la sigaretta di tabacco scaldato che ha lo stesso contenuto di nicotina delle altre ma non c'è combustione, e la sigaretta elettronica che dà nicotina al consumatore attraverso il vapore. Il nostro punto di vista è che queste tre categorie continueranno a esistere a livello globale e non pensiamo che i consumatori smetteranno di consumare sigarette normali a livello mondiale, quindi non condividiamo questo punto di vista. Pensiamo che però vi saranno paesi e geografie in cui queste tre categorie avranno uno sviluppo diverso, quindi sicuramente paesi in cui la sigaretta elettronica come quella che abbiamo lanciato, il tabacco scaldato, potrebbero diventare un giorno rilevanti, paesi in cui la sigaretta normale continuerà a essere di grande rilevanza. Noi come azienda stiamo investendo in tutte e tre le categorie, quindi siamo presenti da sempre nella sigaretta normale, stiamo lanciando la sigaretta elettronica in Italia e in altri paesi europei e al di fuori dell'Europa, e fra un paio di settimane lanceremo anche noi il nostro prodotto simile a quello della concorrenza che citava lei, che il nostro si chiama Glow in Giappone, che è un prodotto che di tabacco scaldato. Quindi non è una sigaretta elettronica in senso stretto, si scalda il tabacco e ne esce un vapore, ho capito bene? Allora, la sigaretta che le ho detto lanciamo in Giappone, sì, Vype Pebble che stiamo lanciando in Italia, è una sigaretta elettronica nella classica definizione, quindi contiene un liquido che viene scaldato e rilascia vapore contenente nicotine con diversi livelli di gradazione in funzione di quello che il consumatore ritiene necessario per il proprio consumo. E quindi mi sembrate leggermente più, non dico scettici, ma vi tenete aperte varie strade rispetto alla dichiarazione appunto della Philip Morris. Grazie anche a lei, lo dico in una giornata, ripeto, per noi molto triste, e di nuovo le condoglianze di tutta Radio 24, devo dire anche di moltissimi ascoltatori, che ringrazio, ad Alessandro Milan per la scomparsa della moglie. Per quello che riguarda la cronaca invece, la porta del plenario resta chiusa, l'aggiornamento lo daranno i nostri GR sulla lista dei ministri che il Presidente del Consiglio Gentiloni sta illustrando al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica. Da Sebastiano Berisoni comunque l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.